Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. È entrata nella fase di messa in produzione la piattaforma logistica nazionale, un grande database dei trasporti che ha l'obiettivo di permettere ai diversi attori della logistica una forma di dialogo integrato e quindi anche la possibilità, questo è appunto l'obiettivo finale, di rendere il trasporto merci più efficiente. Parliamo, per capirsi, per esempio di tenere traccia di qualcosa come 1 milione di mezzi in movimento, questo in tempo reale. La piattaforma è stata realizzata da UIRNET, il soggetto attuatore unico identificato a suo tempo per decreto, che ha da poco completato il trasferimento della piattaforma presso il centro elaborazione dati del Ministero dei Trasporti, e a questo punto la piattaforma può diventare operativa. Ne parliamo con Rodolfo De Domenicis, presidente di UIRNET. Buonasera De Domenicis. Buonasera a voi. Allora, senta, per cominciare le chiedo, ecco, brevemente, che tipo di informazioni, in modo un po' più preciso, insomma, contiene la piattaforma e a chi sono riservate? Dunque, la piattaforma, innanzitutto volevo specificare che la piattaforma è stata completata e collaudata ed è una piattaforma complessa, informatica e telematica, che ha 1600 applicazioni, oltre che un importante database. Essa è dedicata a tutti gli operatori della logistica, tutti. Che ci potranno accedere quindi a usarla? Potranno accedere in maniera aperta, è una piattaforma aperta. Ecco, che tipo di informazioni ci sono dentro? Per esempio, non so, il tal container deve andare da Ancona a Innsbruck e si prevede che passi per Verona. È così più o meno? È questo il tipo di informazioni? Tutte le informazioni, tenga presente che tutte le informazioni sulla vezione delle merci, e cioè quindi legate ai vettori, a quelli che prendono le merci e le trasportano, le trasferiscono, con tutte le attività che sono anche del cambio di modo, che ne so, strada, mare, ferrovia, camion, eccetera, tutte quante queste tipi di attività sono dentro la piattaforma. Ecco, ci fa un esempio di come la conoscenza appunto incrociata da parte dei vari operatori di cosa sta succedendo, insomma, possa aumentare l'efficienza della logistica su scala nazionale, perché questo è l'obiettivo. E faccio subito un esempio: un vettore che parte da una città qualunque, metta Mantova, sì, per andare a, o meglio Verona, per andare a Genova, parte e quindi comincia a essere tracciato. Da quel momento manda segnali alla struttura centrale, che va a verificare se il punto d'arrivo, che è il porto di Genova, è disponibile per servirlo o meno. Se è disponibile, perché potrebbe essere chiuso per vento oppure perché la nave non è ancora arrivata, per motivi vari e diversi, se è disponibile il segnale è di andare il più rapidamente possibile verso la a Genova. Non aspetta. Entra direttamente perché è automaticamente identificato dal sistema nazionale, ha una fast lane e va direttamente a essere servito, impiegando un tempo che è un ventesimo del tempo che normalmente impiega un camion per essere servito all'interno di un porto complesso come quello di Genova. E viceversa, quando... uno se scopre che il porto in quel momento è chiuso, potrebbe decidere di dirottare al volo la spedizione, viene, come si dice in gergo, diverted, viene spostato su un altro porto, ammesso che ciò sia possibile, compatibilmente con le regole di mercato, con i contratti già fatti. Certo, naturalmente. Sono possibilità quelle che vengono offerte dalla piattaforma, poi nessuno sarà obbligato. No, certo, ecco. Nessuno è obbligato, ecco, questa è la frase. Senta, ecco, quindi sia il porto che sa che flussi di merci aspettarsi, sia il trasportatore che sa se il porto è aperto, sia quello che vuole spedire che sa se appunto le catene logistiche funzionano o meno, avranno dei vantaggi, e questo diventa abbastanza chiaro. Uno dei temi che purtroppo, tra l'altro, di questi tempi vanno molto di moda è quello della sicurezza. C'è un impatto di questo sistema, di questa piattaforma, anche sul trasporto delle merci pericolose. Ci spiega in che modo ci può essere un contributo sulla sicurezza? Sì, stiamo parlando ovviamente di sicurezza come safety, quindi sicurezza delle persone in relazione all'esercizio ordinario del sistema. Non certo, in maniera sì, non parliamo dell'antiterrorismo. No? Un camion o butta addosso. È chiaro. Quindi stiamo parlando di questo. Da questo punto ci sono tre grandi, diciamo, settori. Il primo è supporto a chi trasporta merci pericolose per tutta la normativa, in maniera tale che possa essere la normativa stessa seguita senza errori, perché uno dei problemi che è complicata, la normativa molto complicata. La seconda è: non posso facciano viaggiare in carovana mezzi che trasportano merci pericolose. Perfetto. Ma il sistema li distanzia in maniera tale che se ci fosse un inconveniente su un camion, quel camion non coinvolge anche altri camion. Cioè, altri camion. Se un camion trasporta alcol, deve stare lontano da un camion che trasporta esplosivi, no? Appunto, esatto, non può camminarci dietro perché sennò l'esplosione diventa devastante. Potrebbe coinvolgere, certo, esatto. Infiammare anche l'alcol, è chiarissimo. Esatto. E contemporaneamente all'interno delle città creare dei recinti virtuali con dei sistemi di identificazione al bordo del recinto e con percorsi controllati. Perfetto. E tracciati. Che il rischio sia il minore possibile. In tempo reale, perché un camion può anche passare di fianco, non so, a una distilleria, al camion di esplosivi, e magari è meglio che non ci passi, no? Basta davanti a una scuola. Ecco, perfetto, perfetto. Va bene, grazie. Grazie Rodolfo De Dominicis. Grazie a voi, buonasera. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata a voi tutti.